30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Prima mondiale nell'oceano Artico, due cargo della compagnia tedesca BSC hanno consegnato un carico di materiale industriale navigando lungo la rotta polare. È la prima volta che il passaggio a nord-est viene sfruttato commercialmente per ridurre i tempi di transito tra Asia ed Europa. Dalla Corea all'Olanda, ha spiegato l'armatore di Brema Nils Stolberg. Foresight e Fraternity hanno risparmiato 5.000 km e 10 giorni di navigazione. E così, dice, hanno aperto un nuovo capitolo nella storia del commercio internazionale. Il passaggio nord-est è una rotta marittima tra l'Europa e l'Asia. 5.000 miglia, oltre i 60 gradi di latitudine nord. A Capo Chelyushin, 77 gradi di latitudine, si tocca il punto più settentrionale dell'Eurasia. Il capo è un luogo remoto, desolato, un luogo che venne immaginato, sognato per anni, fin dal XV secolo dagli esploratori e poi raggiunto, a prezzo di indicibili sofferenze, dal russo Simeon Chelyushin, appunto. Il passaggio a nord-est, inseguito dai grandi della navigazione, raggiunto a piedi nel 1743, navigato solamente nel 1878 dalla baleniera Vega, che per prima, a bordo, raggiunse la Cina dalla Svezia. La Vega però ci impiegò 2 anni e 10 mesi passarono nell'attesa che il ghiaccio la liberasse. La Vega entrò nella storia, ma chiarì anche che quella rotta era una trappola, buona per gli esploratori disposti a tutto. Era il 1878, 130 anni dopo, tutto sembra cambiato. 4 settembre 2009, la concentrazione del ghiaccio è vicina al 40% solamente nel tratto più settentrionale. Il giorno successivo inizia una sequenza di no ice. Nel diario di bordo del comandante della Foresight, Alexander Antonov, non c'è quasi traccia di ghiaccio. O meglio c'è, ma è un ghiaccio frammentato, poco spesso, che appare solo in un paio di occasioni tra Bering e il fiume Ob. Un ghiaccio, insomma, che non stringe le navi nella morsa proverbiale dell'Artico. Insomma, che succede lungo la rotta di nord-est? La rotta di nord-est passa nel mare glaciale artico e in questo periodo estivo, nel mese di settembre, negli ultimi anni, il ghiaccio marino si sta ritirando sempre di più. I livelli di ghiaccio marino, l'estensione nel 2005, nel 2007, nel 2008 e anche nel 2009 sono molto molto inferiori a quello che era la media dei livelli degli anni, dei decenni precedenti. Buonasera Stefano Caserini, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano, svolge da anni attività di ricerca nel settore dell'inquinamento dell'aria, dei cambiamenti climatici, ha collaborato tra l'altro alla revisione del quarto rapporto dell'IPCC. Insomma, l'Artico è davvero quella cartina di tornasole del cambiamento climatico di cui si parla spesso? Questo si può dire, si può affermare ormai con sicurezza, ci sono dati chiarissimi sia sul livello delle temperature senza precedenti nell'Artico rispetto ai passati secoli, sia anche a livello dell'estensione dei ghiacci. È uscito proprio poche settimane fa su Science, una rivista molto prestigiosa, un lavoro che faceva vedere sulla base di uno studio sulla paleoclimatologia, quindi sui sedimenti di alcuni laghi nella zona dell'Artico, come le temperature che ci sono state nell'ultimo decennio non hanno precedenti negli scorsi 200 periodi di 10 anni, quindi negli scorsi 2000 anni non c'è mai stato così caldo come negli ultimi decenni. Ecco, una volta ci si affidava ai racconti, appunto ai diari di bordo di comandanti e capitani che chiaramente in condizioni anche tecnologiche molto diverse affrontavano quei mari. Di sicuro c'era la descrizione di un luogo estremo anche d'estate, qualcosa di molto diverso da quello che appare oggi, dove peraltro naturalmente le navi di cui abbiamo parlato all'inizio, navigano utilizzando i sistemi satellitari, le mappe, il GPS, oltre naturalmente a degli scafi ben più solidi. Sì, però va detto che le differenze sono sostanzialmente in qualche settimana, in un qualche mese dell'anno, per la stragrande maggioranza del tempo di tutto l'anno l'Artico comunque permangono condizioni in cui non è possibile la navigazione, comunque anche nei prossimi decenni sarà comunque difficoltosa la navigazione perché c'è il pericolo di zone che si possono chiudere, quindi non sarà comunque una rotta facile come a volte si sente. Assolutamente, questa non è l'idea che vorremmo che passasse, ma l'idea però che questa sorta di respiro che è l'Artico e in particolare il PAC, cioè la massima estensione invernale, ovviamente si salda alle terre circostanti, in particolare della Russia e del Canada, ma di fatto si misura d'estate. Poi c'è un fattore importante che è quello dello spessore del ghiaccio. Sì, ecco, sullo spessore si fa più fatica a vedere appunto in modo molto chiaro. A livello della superficie abbiamo su alcuni siti internet come quello del National Snow and Ice Data Center in cui abbiamo proprio tutti i giorni la fotografia del giorno precedente satellitare che ci fa vedere l'estensione, abbiamo un quasi in tempo reale, quindi nel giro di pochi giorni il calcolo della superficie, abbiamo un bellissimo grafico che ci fa vedere e ci sta dicendo che nei prossimi pochi giorni noi raggiungeremo il minimo di quest'anno, che sarà un pochettino maggiore del minimo del 2008 e del 2007, ma solo perché il 2007 e il 2008 sono stati due anni in cui si è raggiunto il minimo assoluto da quando si fanno le misurazioni. Quindi a volte si sente dire che i ghiacci stanno aumentando, però è soltanto perché sono scesi talmente tanto nel 2007 che questo piccolo recupero comunque non cambia la situazione molto problematica. Si parla anche di irreversibilità, ma c'è del vero, c'è dell'elemento scientifico in queste affermazioni, cioè che ormai sia destinato in alcuni anni, si cita al 2030, al 2040, la calotta polare a scomparire d'estate? Questo è un punto molto delicato. Diversi studiosi seri che conoscono profondamente anche le dinamiche che ci sono nell'Artico, anche questo fenomeno di amplificazione del riscaldamento globale, hanno scritto insomma su riviste scientifiche come forse si è già superato per il ghiaccio marino artico il punto di non ritorno. Ecco, su questo permane ancora un po' di incertezza, ma non è comunque un fattore così importante, nel senso se il ghiaccio marino artico scomparirà d'estate, se la prima estate senza ghiaccio marino sarà nel 2030 2040 non cambia sostanzialmente niente. Il problema è che noi stiamo modificando profondamente quello che è il clima dell'Artico e poi anche del resto del pianeta. Lo vediamo prima nell'Artico e questo ci deve dare un'indicazione chiara sulle nostre responsabilità e quindi sull'esigenza di ridurre le emissioni dei gas che provocano il surriscaldamento del pianeta. Ecco, il ghiaccio naturalmente si vede, lo mostrano i satelliti, si riduce, l'estensione è minore, i satelliti ora sono in grado anche di valutarne le spessure. Ma per quanto riguarda i paesi rivieraschi, quindi la Siberia, il Canada, l'Alaska, ma anche la Groenlandia, naturalmente le isole, in particolare l'Islanda e poi le Svalbard, insomma le isole che fanno parte di questo bacino che è l'Oceano Artico, quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono anche sul clima proprio, oltre che sul ghiaccio? Sì, la prima conseguenza è sulle maggiori temperature, che magari quelle latitudini possono anche fare in parte piacere. C'è una conseguenza sicuramente sulla fauna. Classicamente si dice gli orsi polari, è evidente che il mare artico senza ghiacci comprometterà insomma la possibilità di vita di una serie di catene alimentari, di una serie di specie viventi. Il problema è che abbiamo dei dati di temperatura molto chiari, nel senso che il ghiaccio è bianco e riflette la radiazione solare, quando non c'è il ghiaccio il mare assorbe più calore. Questo è il motivo per cui poi le temperature crescono, perché il mare pian piano restituisce all'atmosfera questo calore. Quindi l'anno scorso, ad ottobre, si sono verificate temperature che erano dai 3, 5, 7 gradi superiore a quella che è la media di quel periodo. Ecco, Caserini, sbaglio o c'è un po' quell'effetto per cui ogni tanto vediamo nei telegiornali l'ipotesi di coprire ghiacciai, cioè meno è bianco più il calore viene assorbito, dunque meno dura la calotta polare più il bilancio termico del nord del nostro pianeta diventa squilibrato o comunque va più verso il calore? Certo, questo è uno dei fenomeni che vengono chiamati di feedback, di retroazione, quindi il problema innescato dalle attività umane determina una conseguenza che a sua volta aggrava il problema. Nel sistema climatico ci sono anche dei feedback che si muovono in senso contrario, quindi che cercano di stabilizzare il clima, però questa amplificazione è un'amplificazione molto preoccupante, che è descritta dai modelli, e i modelli prima descrivevano un artico senza ghiaccio intorno al 2060-2070. Adesso sono stati rivisti perché forse in questi modelli magari non si era descritto bene, come a volte l'incertezza di questi modelli non è soltanto nel dare scenari più pessimisti, a volte non tenevano conto invece di alcuni fenomeni che possono essere più, diciamo, più rapidi di quello che si pensava precedentemente. I più grandi studiosi, ho avuto modo di sentire a un convegno Mike Sarraz, che è l'attuale direttore appunto del centro Snow and Ice Data Center, lui ha detto insomma che forse probabilmente nel 2030 potrebbe esserci un'estate senza ghiaccio marino, ecco, anche se comunque il 2035 questo non sposta il problema è che noi dopo centinaia di anni in cui migliaia di anni in cui l'Artico era nelle stesse condizioni stiamo bruscamente dando un segnale di cambiamento. Ecco, il cambiamento che lei diceva per esempio per gli orsi, che sono cacciatori da ghiaccio, nel senso che le loro prede le catturano tendendo degli agguati e quindi hanno bisogno di una piattaforma, per alcuni è uno svantaggio, per altri è un vantaggio o comunque una possibilità. Hello and welcome to Top Story. A report from Europe's two most senior foreign policy officials has warned EU governments to prepare for increasing conflict with Russia over energy resources. Foreign policy chief Javier Solana. Già, il mondo dell'energia e delle risorse. Il cambiamento climatico sta innescando anche una trasformazione nello sfruttamento di quelle che sono le risorse dei fondali e della piattaforma dell'Artico. Fino agli anni 50, di fatto, il nord del mondo era un luogo praticamente dimenticato, semmai se ne occupavano gli esperti di balistica, che proprio durante la guerra fredda consideravano di fatto l'Artico una zona di passaggio per potenziali missili. Ma tutto è cambiato a partire dalla fine degli anni 50. Pensate, nel 1957 il primo pozzo di petrolio in Alaska. Non fu una faccenda semplice, 163 tentativi prima che una piccola società californiana trovasse quello che poi diventò uno dei più grandi giacimenti del mondo. 30 minuti in cronaca. Bentornati a 30 minuti in cronaca. Dunque, dal successo di due navi cargo che hanno navigato dalla Corea all'Olanda, di fatto realizzando il primo viaggio commerciale lungo il passaggio a nord-est, alle implicazioni della trasformazione, insomma a chi vince e chi perde in questo cambiamento ormai evidente in corso soprattutto nel nord del mondo. Con noi il professor Stefano Caserini, lo ricordo, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano. Abbiamo anticipato il tema dell'energia, prima però vorrei chiederle una riflessione su quello che è di fatto la più grande isola della regione, la Groenlandia, un paese che rischia forse più di altri da questa trasformazione. Sì, gli impatti del riscaldamento dell'Artico saranno non soltanto sul mare, sul ghiaccio marino, ma anche sui ghiacci della Groenlandia. Il ghiaccio marino sappiamo che se si fonde non innalza il livello del mare, perché è già un ghiaccio galleggiante. È già parte del mare, quindi ha già spostato il mare. Invece se si fondono i ghiacci della Groenlandia sono in grado di alzare il livello del mare. Se si fondessero tutti i ghiacci della Groenlandia si potrebbe alzare il livello del mare di 7 metri. Quindi il problema cos'è? Che questo riscaldamento pian piano si trasmette, come già alcuni segnali stanno mostrando, ai ghiacci della Groenlandia, e la fusione di questi ghiacci innalza il livello del mare. Questo è uno dei punti oggi di grande attenzione scientifica, capire quanto resisteranno queste masse ghiacciate al progressivo riscaldamento della zona artica. Sicuramente resisteranno millenni, cioè mentre il ghiaccio marino abbiamo detto che ha i decenni contati, quelli invece sono ghiacci molto profondi, quindi resisteranno secoli e millenni. Però ecco, potremmo avere nel giro di pochi secoli un significativo innalzamento a livello del mare, ecco, non di 40 metri, ma anche qualche metro, potrebbe dare grandi problemi per il pianeta. Intanto dicevamo il capitolo energetico, la trasformazione proprio della regione, la maggiore accessibilità, più presenza di navi, anche di piattaforme. Vi ho raccontato prima come nel 57 un primo pozzo petrolifero nell'Alaska avesse in qualche modo segnato anche la storia dello sfruttamento petrolifero nell'Artico. Beh, negli ultimissimi anni soprattutto la Russia settentrionale è diventato un formidabile produttore mondiale di petrolio e gas. Tutti i nuovi grandi pozzi, con l'eccezione di pochissimi nel sud del paese, di fatto si affacciano sull'Artico. Ecco, cosa rischia di accadere lassù? Il problema è che se andremo avanti a utilizzare le riserve fossili per il nostro sistema energetico, continueremo ad aumentare i livelli di CO2 dell'atmosfera. Quindi quelle potrebbero essere delle nuovi giacimenti che magari permetteranno di prolungare ancora un po' di più questo sistema energetico che ormai sappiamo che dobbiamo cambiare. C'è un accordo internazionale che si sta cercando di costruire per fare in modo di tassare questo carbone. Quindi delle fonti di approvvigionamento di petrolio a basso prezzo potrebbero favorire l'ulteriore utilizzo di queste riserve fossili, soprattutto petrolio. Sappiamo che è un problema grosso, forse quello più del carbone oggi sul pianeta. Andare poi in queste zone a perturbare anche degli equilibri ecologici è una cosa molto delicata. Non dimentichiamo che uno dei problemi di quando si lavora nell'Artico è anche che le emissioni di particolato, di polveri, di quello che viene chiamato diciamo il black smoke in queste zone, si depositano poi questa polvere nera sui ghiacci e favoriscono poi la cattura dei raggi solari da parte delle superfici ghiacciate. Quindi sono ecosistemi molto delicati che andrebbero più tutelati. Insomma, sembrano, come dire, una volta o comunque ancora si usa l'espressione ghiacci eterni. In realtà non c'è nulla di eterno, tantomeno nel ghiaccio, mentre a proposito di ghiacci e invece di calore, cresce anche l'attenzione dei paesi che da posizioni diverse osservano a questo mondo in trasformazione. Russia wants to create a military force to defend what it sees as its polar interests. We don't have any plans to militarize the Arctic. 28 marzo scorso, quindi una notizia possiamo dire quasi freschissima. La Russia annuncia l'intenzione di costituire un corpo d'armata dell'Artico. Il generale russo che sentivamo in sottofondo si assicura a ribadire che la Russia non ha nessuna intenzione di militarizzare l'Artico, cosa che peraltro in realtà, come dicevamo prima, durante la Guerra Fredda era già stato fatto. Insomma, prove generali di dialogo che riguardano Russia e Norvegia, due paesi confinanti, diciamo di due blocchi o almeno in termini passati, contrapposti paesi che ora hanno ragioni di tensione tra di loro. Allora, vedremo come si svilupperanno queste situazioni, queste complessità. Intanto però c'è un consesso, c'è uno spazio internazionale in cui si discute invece come intervenire, come prevenire quello che ormai appare un fatto accertato. Caserini, sulla via di Copenaghen alla fine dell'anno ci sono appuntamenti importanti in temi ambientali. L'Artico gode di un'attenzione particolare? Sì, c'è attenzione sull'Artico, ma non solo sull'Artico. Sicuramente la partita dell'Artico fa parte di quella grande partita geopolitica che si sta giocando, che si giocherà anche a Copenaghen. Se ne è parlato nel G8, ma a mio parere è ormai chiaro a tutte le grandi superpotenze che il problema del riscaldamento globale è una cosa seria, esiste e va affrontato. Quindi se il G8, appunto come è successo all'Aquila, si esprime chiaramente sulla necessità di ridurre le emissioni, vuol dire che hanno anche loro dei dati, e questi dati danno delle indicazioni chiare. Il problema è che naturalmente quando si parla di geopolitica si entra dentro in un campo un po' minato, forse adesso è ancora un po' debole il quadro istituzionale che potrebbe portare ad una riduzione, a un accordo mondiale di riduzione delle emissioni. I prossimi mesi, anche le trattative frenetiche di questi mesi fanno vedere come c'è una grande attenzione, ma ci sono ancora delle posizioni sostanzialmente diverse, principalmente paesi come la Cina e l'India che hanno delle basse emissioni pro capita rispetto a quelli dei paesi occidentali come l'Europa, come gli Stati Uniti, vogliono vedere i nostri primi passi e noi facciamo fatica a ridurre le emissioni perché hanno tanti motivi, adesso qui forse è un po' lungo, non riusciamo a dilungarci. Quindi la partita dell'Artico è dentro una partita in cui si cerca di ottenere qualche risultato con i paesi in via di sviluppo, non fargli ripercorrere la nostra strada, quella che noi abbiamo percorso per tanti secoli, allo stesso tempo però cercando di far valere quelli che sono dei principi di equità che fanno sì che noi siamo i primi che dobbiamo dare il buon esempio nel ridurre le emissioni, perché ancora oggi, per dare qualche numero, noi emettiamo più o meno 10 tonnellate di anidride carbonica a testa, gli Stati Uniti 22, la Cina 4,5, l'India meno di 2, quindi è evidente che loro non accetteranno Copenaghen degli impegni di riduzione delle emissioni come i nostri, però quello che si può ottenere è magari un po' di attenzione. Ecco, paesi come la Russia, sono paesi, anche la Cina, insomma paesi in cui non sono di fatto paesi democratici o comunque con i livelli degli standard di democrazia dei paesi occidentali, e quindi quanto questi paesi davvero riusciranno a tener conto dei problemi ambientali nelle loro politiche, questo non è facile da capire. Paesi come la Russia, che in particolare ha dei fortissimi interessi strategici nella regione e in quello che è l'Oceano Artico. La stessa è proprio Mosca, infatti, che in questi anni porta davanti al Consesso delle Nazioni Unite alcuni importanti dossier che riguardano la struttura proprio dell'Artico, e in questo modo rivendicano il controllo di un territorio che di fatto dalla costa russa si spinge fino al Polo Nord. Sono argomenti scientifici, in questo caso riguardano il cosiddetto Lomonosov Ridge, quindi una catena montuosa sottomarina, insomma diritto internazionale, ma anche l'urgenza di prendere decisioni. Nel frattempo i tempi dell'Artico sono un po' più veloci, a quanto ci ha anche aiutato a capire, diciamo, degli altri luoghi. Cioè l'Artico rischia di non avere tempo sufficiente per aspettare la diplomazia. Eh sì, non solo diciamo il ghiaccio marino, il problema è che questo riscaldamento potrebbe poi liberare, anche se pensiamo alle zone della Siberia e della Russia, dei depositi di carbonio che sono oggi congelati, e anche questo sarebbe un feedback positivo, come viene chiamato dagli studiosi. Ecco, non si può decidere i confini sulla base dei criteri scientifici, questa è la politica, quindi sarà la politica a decidere cosa fare in quelle zone. Però il messaggio che possiamo sperare che arrivi dalla Russia è che anche se magari loro avranno dei benefici da questo riscaldamento, poi il pianeta è uno solo, quindi anche loro poi non magari nei prossimi decenni ma più a lungo termine potrebbero sperimentare dei grandi impatti da questo riscaldamento globale, che magari potrebbero essere nascosti nei prossimi decenni, loro potrebbero avere dei benefici. Ecco, l'importante è, si spera appunto che nasca un quadro istituzionale in cui tutti i paesi riconoscono che il pianeta è uno solo, poi come decidere chi ha la proprietà o che nazione sono quelle zone, questo è un qualcosa su cui la scienza non può dire molto. Io ringrazio Stefano Caserini, lo ricordo, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano, per essere stato con noi. Siamo arrivati ormai alla conclusione, 30 minuti in cronaca, come tutti i programmi di Radio 24 lo trovate su www.radio24.it, e ora non mi resta che augurare a tutti voi un ottimo fine settimana.